Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Eccoci qua, cari ascoltatori, eccoci qua in questo sabato 22 aprile alle 10:06 primi e 55 secondi in diretta allo studio di Milano Assolatissima. Siamo qui per tenervi compagnia e oltre a Oscar Giannino che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta e in podcast, i compari dei Conti della Belva che sono con me in studio stamattina. Renato Cifarelli. Che torna con noi finalmente tutta la trasmissione. Oh, tu la devi smettere di fare tutti questi danni come imprenditore. Giusto. Mi fanno lavorare. Ti fanno lavorare. No, Renato, bentornato. Faccio le operazioni straordinarie e poi mi fanno lavorare, io non ero abituato. Ma guarda che poi ci credono questi che ti ascoltano, sta scherzando ovviamente, questo sta spalando da né in tutto il mondo in una maniera pazzesca. E naturalmente caro Alberto Carnevale Maffè, come andiamo caro Alberto? Bene, ho posteggiato la mia belva di fianco a quella di Renato, sono le due belle, una nera e una rossa, che meraviglia. Sì, però sono di due motociclette. Oggi niente ferrovie. Oggi si parla di motociclette. Mario! Eccoci, buongiorno a tutti. Mario, quando è collegato con noi c'ha questa voce leggermente metallica. Vi posso garantire che Mario ha sangue e carne ed è capace di sentimenti, tant'è che tra poco si arrabbia. Anche chimica, se posso dire. Sì. Allora, in questa trasmissione avremo un ospite che si paleserà non appena arrivano i treni, diciamo così. Dai, ci sarà come al solito la rubrica iniziale. Vedrete che ci sono cose da mettere a punto visto alcuni recenti avvenimenti di ieri. Quindi la rubrica a cui partiamo da sempre, quella di Mario, per fare il punto della situazione in settimana. E dopo abbiamo per più mezz'oretta abbondante ospite il capo di Ferrovie dello Stato, no? Sia della rete RFI che dei servizi Trenitalia, con cui parlare non tanto, non solo delle cifre tonitruanti del bilancio annunciato ieri, quanto del progetto di incorporazione. Progetto ormai è partito, il governo ha deciso. La strada è tracciata, caro con Oscar, devi rassegnarti. No, una strada che a me non comincia per niente. Ma è la strada o è la strada ferrata? Strada ferrata. È una cosa che non ha pari nel mondo. Ferrovie dello Stato, ANAS, si ingigantisce il pugno di Stato. Un privato non prenderebbe mai una roba di cui disconosce, non sa letteralmente il contratto di servizio con il pubblico, con il Dante Caso di ANAS, perché Ferrovie dello Stato né ANAS lo sanno. Non prenderebbe mai un privato, un gruppo in cui il suo piano industriale del 2000... Non mi interrompete, il piano non ci provate, perché questi due sono per di ferrovie, quindi io ve lo dico, caro ascolto. No. Nessun privato prenderebbe un gruppo che nel suo piano industriale pluriennale dell'anno scorso diceva i margini sono garantiti da 520 milioni di risparmio e 50 milioni di aumento dei ricavi. È inutile che mi interrompa, fammi andare avanti! Oh, oggi regole chiare, perché qui non sapete, ma Baccioncini di Ferrovie desta un stupendo entusiasmo nei tecnici come Carlo Alberto. Io faccio il mercatista e siccome ci sono pacchi di miliardi ogni anno che vanno di trasferimenti a ferrovie, questa roba di ingigantire ulteriormente rendendo opache le gare eccetera, ne parleremo con Mazzoncini. Però la mia personalissima, sarò minoritario anche qua, impostazione è molto molto molto molto critica. Dopodiché, cari ascoltatori, passiamo all'esame della Francia, visto che si vota domenica il primo turno. Cosa vuol dire economicamente, finanziariamente, il punto di ciò che può avvenire per l'euro, l'Europa, sui mercati. Se volete chiamarci su questo 800240024, ma intanto, oltre a questo, settimana ricca di manine, manone, decreti, ne parleremo tra poco, ancora non visti e non firmati dal Quirinale. Cosa vogliamo segnalare ancora, Mario, prima della tua rubrica? Io due cose vorrei segnalare. Ieri c'è stato uno splendido lancio ANSA di una deputata di Forza Italia che si chiama Elvira Savino, che ha voluto far sapere al mondo che le attuali divise del personale Alitalia sono di pessimo gusto e del tutto inadeguate a rappresentare il tricolore. Che vanno cambiate subito. E siccome la manager, la responsabile, diciamo, della corporate identity, comunicazione, visual identity, come diavolo si dice, è uscita da Alitalia, l'onorevole Savino ci fa sapere che le dimissioni di questa manager sono un primo passo in avanti per salvare almeno l'immagine della compagnia di bandiera. Per cui la sintesi di questo discorso è: arriva il fallimento e non so cosa mettermi. Esatto. E tra l'altro a me ieri qualcuno ha fatto notare con spirito assai macabro che di solito nella bara ci si mette il vestito più bello. Questo io non arrivo a tanto, però diciamo che il senso è quello. Vabbè, questo è un'applicazione del concetto di fuoco fatuo. Nel senso di fatuità è nel senso di decomposizione di materia organica che lascia spazio a cazzate. Ultima cosa che voglio segnalare è un exploit televisivo dell'eurodeputata, sempre di Forza Italia, evidentemente stanno tornando in auge, Lara Comi, che ha detto che occorre che si ottenga il ricalcolo del cambio lira-euro. Cioè, dopo, come dire, 18 anni da questa prima determinazione, l'euro onorevole Comi chiede il ricalcolo, ma non solo, non paga di ciò, ha fatto presente che il ricalcolo dovrebbe avvenire con un cambio intorno a 1.200-1.500, non 1.936,27. Quindi l'onorevole Comi chiede la rivalutazione della lira, non la svalutazione. Evidentemente siamo talmente forti che possiamo permetterci anche di chiedere la rivalutazione. Quindi, ma che dire, Mario, che dire? Ma volevo sapere, ma mi ridanno i soldi di quando hanno fatto il cambio sul conto corrente, oppure cosa succede? No, perché mi interessava, insomma. No, e probabilmente ridanno dei soldi all'onorevole Comi per rimborsare il pagamento della madre come assistente parlamentare a Strasburgo. Nella fase iniziale, lo sai, quando ancora non ci si trovava bene, poverina, non lo sapevo. Aveva bisogno della mamma, aveva 26 anni, diciamo. Va bene, comunque al di là di questo, cari signori, questa settimana l'episodio della manina Manona, io l'ho illustrato ieri con Vital Bazzolini, abbiamo spiegato perché tecnicamente, al di là di tutto, Gentiloni ancora non ci ha spiegato cosa è successo su quel decreto, un decreto delegato complesso, c'erano osservazioni del Consiglio di Stato di cui tenere conto, non erano cassare la norma e elevare il potere sia pure extraordinamentale concesso per via straordinaria all'ANAC, però noi dopo spiegato tutto questo con Vital Bazzolini ieri abbiamo dovuto ridire ai nostri ascoltatori, e io qui lo ripeto, che la responsabilità politica del coordinamento dei testi delegati e complessi come in quel caso, quindi non stiamo trattando di un testo di un decreto interministeriale che in preconsiglio dei ministri viene coordinato dai capi di gabinetto dei diversi ministeri, ma quel testo lì è coordinato sotto la responsabilità del dipartimento guidato a Palazzo Chigi da Maria Elena Boschi. Gentiloni ci dovrà spiegare, se non è così ci dica il nome, altrimenti però politicamente è un episodio che resta significativamente rilevante, per così dire. Del decreto parleremo tra poco, ma fammi anticipare che la norma che è confermata dei 68 articoli superfetati, che grazie al cielo il Quirinale vaglia e fa passare i giorni per far capire a tutti che non si beve un testo che non è stato approvato in Consiglio dei Ministri la settimana scorsa e che è stato scritto dopo, anche se formalmente facciamo finta di credere che è stato approvato la settimana scorsa, quindi ulteriore conferma che il procedimento normativo nel nostro paese è totalmente opaco. Ma detto tutto questo, sì, si conferma che ci sono 300 milioni tramite Invitalia, tornando al discorso che facevi tu Mario, di garanzia alla ricapitalizzazione di all'Italia da parte dei privati, anzi è proprio concepito perché a metà 2018, se il piano fallisse, perché è evidente che loro stessi non credono molto alla percorribilità del piano di Alitalia, ne parleremo sabato prossimo dopo il referendum, allora a quel punto scatta l'intervento pubblico, come dire, di fronte al nuovo piano che fallisce lo Stato se lo riprende. Caro Carlo Alberto, non si capisce mai abbastanza quante volte si sbaglia con la mano pubblica nei trasporti. Potremmo mai rimanere senza di cielo, di terra e di mare. No, io sto parlando di cielo, privati. Di fallimenti di privati sto parlando. Potremmo mai rimanere senza compagnia di bandiera? No, per carità. No, ma guardate, non esiste più il problema. Non è più la prima compagnia italiana. Mi fate parlare un secondo di Telecom Italia di Vivendi, perché è un tema importante. Per la prima volta applicata la legge Gasparri, direi che c'è un segnale forte, che vuol dire che questo sistema integrato delle comunicazioni alla fine viene considerato tale, no? Se qui tutti si vogliono integrare, tutta la convergenza, vero? Vuol dire che in qualche maniera anche le autorità prendono atto che ci sono sussidi incrociati, poteri di influenza. Sussidi incrociati, tema che riprenderemo tra poco. No, va bene. Però voglio dirti un segnale importante, perché proprio a pochi giorni prima delle elezioni francesi, gli italiani non fanno un'operazione nazionalista, ribadiscono un principio molto liberale, corretto, cioè che non si può avere una posizione dominante o comunque cruciale in due mercati così contigui. Mi sembra un bel segnale. Ci ho detto, vince Cologno, secondo me, un round importante su questo. Vediamo cosa succede. I francesi non sembrano intenzionati a vendere, vorrebbero congelare le azioni, però è un segnale per cui alla fine una soluzione dovrà essere trovata, no, spero non nei tribunali. È una soluzione, spero, importante, perché il paese ha bisogno di investimenti anche su quel fronte della convergenza fra telecomunicazioni e media. Che parli, che pensi dell'ipotesi di cui si è parlato, del fatto che Vivendi faccia con Orange? Guarda, il consolidamento delle telecomunicazioni europee non può essere fermato, sono 10 anni che lo diciamo. È certo che poi vengano società di Stato o comunque partecipate dallo Stato a fare acquisizioni, a me spiace sempre un po', ecco, io preferirei che ci fosse un po' più di competizione su questo, però è vero che la tecnologia richiede grandi investimenti, richiede... Ti riprendi subito, caro mio consulente. È che voglio... no, sai, perché ci è arrivato un amico qua in studio e voglio preparare il terreno e farvi capire che oggi non è proprio giornata di baci abbracci, no? È una giornata, diciamo, in cui il senso critico deve prevedere. Però fammi dire, non possiamo pensare con la frammentazione di 10 anni fa in mente, Oscar. Dobbiamo accettare che i grandi investimenti che servono per le tecnologie siano fatti da non da campioni nazionali, che è un tema che non mi piace, ma da aziende che abbiano le dimensioni per attrarre capitale e per gestire questi progetti complessi. Beh, quindi sì, ben venga. C'è anche tutto il tema del roaming che viene eliminato, certo, eccetera, certo, eccetera, che naturalmente viene facilitato dal fatto che i gruppi siano completi ed europei. Perfetto, allora da un minuto di pausa, poi torniamo subito con Ricordati che devi morire. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamo della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupare. Ed è infatti ieri sera la Fitch, cari amici in ascolto, ce l'ha puntualmente, precisamente, cari italiani, ricordato. Ricordati, su questa strada, cari italiani, sbatti il muso e morirai. Che dici, Mario? Beh, c'è da dire alcune cose su questo dato. Intanto, per evitare le solite levate di scudi patriottiche, le società di rating, e la procura di Trani arriva la procura, esatto, di Trani, esatto, dentro i vaccini ci sono le agenzie di rating, come ha scritto qualcuno, e altre idiozie del genere. Dunque Fitch, che di solito è molto tranquilla, rilassata, arriva come tutte le sue consorelle più grandi con grande ritardo, ma per un motivo banale. Cioè, quando Fitch dice che la situazione d'insieme è fragile, il sistema bancario non è ancora completamente ripulito, la crescita è insoddisfacente, dice delle pure banalità. Però io nei giorni scorsi a me è caduto l'occhio su un indicatore numerico che praticamente più nessuno sta guardando, che è il livello dei credit default swap, quindi di questa sorta di assicurazione contro il rischio di default. Ebbene, la cosa interessante è che il CDS sovrano italiano non fa altro che allargarsi lentamente ma inesorabilmente. Ieri eravamo intorno a 185 punti base sulla scadenza a 5 anni, ma questo numero di per sé probabilmente agli ascoltatori non dirà nulla, però se lo compariamo con quello della Spagna, attenzione, Spagna non Germania, quindi non stiamo parlando di virtuosi assoluti, vediamo che il CDS a 5 anni della Spagna vale 80, quindi lo spread tra Italia e Spagna sul credit default swap ha superato i 100 punti base ed è confortevolmente più ampio di quello che c'è sul titolo di Stato decennale. E anche lì però c'è una tendenza inesorabile all'allargamento. Quindi, pur con tutti i limiti operativi e concettuali dello strumento del credit default swap, Quello che io voglio enfatizzare, voglio stressare, evitare che la gente poi parta con il cospirazionismo, ma tanto sono un illuso a credere di poterli fermare sì, io. Sì, ti illudi. Che non c'è nessun complotto delle agenzie di rating, che le agenzie di rating, come si dice in gergo tecnico, sono pesantemente dietro la curva, cioè in ritardo, si limitano a certificare l'esistente e non più a plasmarlo. I dati sono questi, cioè... Quando si dice, la cosa che io contesto a Fitch è un po' magari una mancanza di realismo politico o un eccesso di diplomazia, in che senso? Quando Fitch dice in Italia c'è un problema di instabilità politica, sì, si limita ad osservare quello che accade, nel senso che noi andremo probabilmente a votare con due leggi elettorali differenti tra Camera e Senato, il che è una purissima aberrazione, però... Fitch dimentica di dire che negli ultimi 3 anni questo paese, malgrado opportunità irripetibili, non è cresciuto, eppure la stabilità politica c'era, eppure c'era a Palazzo Chigi una persona che aveva il controllo della situazione e delle operazioni, ma proprio per questo questa persona ha compiuto scelte di politica economica che i fatti e la storia dimostreranno avere contribuito pesantemente a questa mancata ripartenza italiana, cioè al deterioramento della nostra situazione dei conti pubblici quando il vento cambierà. Per cui questo io al limite contesto alle agenzie di rating. Non si può solamente dire ma in Italia c'è instabilità politica o magari dire aiuto arrivano i populisti. I populisti sono la reazione malata di un sistema malato che sono stati fatti crescere da chi ha sbagliato scelte di politica economica per anni e si accinge a tentare di tornare in sella per ripeterle uguali a loro stesse. Però Mario, lo sai che se ci fosse qui, lo dico per oggettività, per il mestiere che faccio, se ci fosse qui qualunque esponente che sostiene il segretario, adesso ci sono in corso le procedure per la conferma della segreteria e la modifica, ma insomma sarà riconfermato il segretario del PD, ti direbbe no, Fitch non sbaglia, perché Fitch ricorda semplicemente che l'instabilità a seguito della scelta degli italiani che sono andati dietro ai populisti il 4 dicembre scorso ha alterato il quadro di stabilità, e eccoci qua che il risultato è compromesso. Poi voglio dire, a prescindere da come la si pensi noi individualmente, quella lettura di Fitch mi sembra, per così dire, ecco, più vicina alla lettura, tra virgolette, politico-istituzionale della maggioranza che governa fino a questo momento il nostro paese. E se posso, c'è stato anche il Fondo Monetario Internazionale che è intervenuto in questi giorni a ricordare la situazione. Mario, tu prima citavi il populismo. Io volevo dare un dato. Nel gennaio 2016 i CDS, cioè i crediti del default swap a 5 anni, di Italia e Spagna erano sullo stesso livello, erano a 100. Certo, okay? Certo. Si sono aperti con una forbice incredibile. Ora, non è che la Spagna sia stato proprio quel... paradiso di stabilità, privo di populisti, ci sono scelte. Crescita 2016 3,2, crescita appunto, 2017 appunto, attesa corretta verso l'alto al 2,6. Quindi? Però scusami, i populisti in Spagna, ammesso di definire tale Podemos, che non è proprio populista nel senso italiano o di altre parti d'Europa del termine, mi pare che siano stati puniti abbastanza severamente nelle urne e che siano in una traiettoria discendente. Alla fine la crescita economica è la cura migliore al populismo, non le rassicurazioni, le chiacchiere che notoriamente stanno a zero, o inventarsi spin del tipo abbiamo 47 miliardi di tesoretto. Vabbè. Perché questo vuol dire insultare l'intelligenza degli interlocutori, perché a me dell'intelligenza di chi formula queste tesi interessa poco e nulla, mi interessa di più non essere preso per un imbecille. No, aspetta, problema. Chiamano un secondo, perché non è detto che chi ci ascolta abbia presente, perché noi facciamo polemica incessante su questo tesoretto da 47 miliardi. Temo, cari ascoltatori, che una volta instaurata il precedente di appostare significa non finanziare, capito? Non ci sono le risorse per 47 miliardi, ma certo. Appostare in un ciclo di spesa trentennale, ventennale, quello che volete voi, un programma per 47 rotti miliardi, il prossimo governo a questo punto dirà: e chi siamo noi per farne meno? Annunciamone 100 per i prossimi 30 miliardi. miliardi. Sono cifre, siccome la loro esistenza reale sarà esclusivamente sospesa al fatto che si trovino coperture e finanziamenti, è pari a una promessa per chi ci vuole credere. Ecco, questo è, noi per questo spariamo addosso, capite? Non è che siamo contrari all'idea di programmi consistenti di investimento, visto che ancora una volta nel 2016, ricordiamolo, abbiamo preso la clausola di investimenti grazie al grande Padova, anche oggi viene bastonato, ma gli investimenti pubblici sono scesi del 4,4%, esatto, caro, esatto. Governi, vabbè, che pallisti. Detto tutto questo, però il segnale di Fitch l'hanno dato prima della scelta in Francia, non mi sembra un caso, o no? Secondo te è casuale, Mario? No, ma credo di no, però tieni presente che ci sono dei calendari di pubblicazione decisioni, sì, di, esatto, rating, quindi li hanno messi sul binario giusto. Tra l'altro ieri la quarta la piccola sorellina delle agenzie di rating, la DBRS, ha confermato il rating del Portogallo, che resta investment grade, ma solo per la DBRS, esatto, mentre per le altre tre resta un filo. Junk, esatto. E tra l'altro il credit default swap del Portogallo vale 250, noi siamo intorno, come detto, a 180-190, quindi tendiamo molto più verso il Portogallo che verso la Spagna. Ora, è vero che gli italiani o alcuni sono convinti che il Portogallo abbia fatto il miracolo perché hanno ridotto il deficit, eccetera, ma i fatti dimostreranno che il Portogallo resta in una condizione di fragilità, peraltro in comune con noi, ha un sistema bancario molto fragile. Sulle previsioni di crescita, Mario, giusto per dire, perché siamo sistematicamente, sia Fondo Monetario che Fitch, sì, un paio di punti decimali sotto alle previsioni del governo. Tu cosa dici? Io sono dell'idea che il nostro potenziale di crescita resti all'1%, il che vuol dire che l'azione governativa degli ultimi 3 anni non lo ha innalzato. In questo senso io non sono d'accordo con Padoan, ma anche con consiglieri economici come Luigi Marattin, che dicono: noi non siamo d'accordo con la misurazione dell'output gap. Potenziale da parte, cioè secondo me questo paese ha un potenziale all'1%, le riforme strutturali devono allargare e aumentare il potenziale, ma io temo che in questi ultimi 3 anni, visto che le riforme strutturali sono state più una narrazione che un dato di fatto, il potenziale resti all'1%. Noi più di così non andiamo, ma anche perché abbiamo una demografia che ci gioca contro. A questo aggiungiamo che abbiamo investimenti che sono veramente sofferenti in incidenza sul PIL, e questo spiega la malattia italiana. C'è un ultimo punto sull'inflazione. Draghi al G20 ha ricordato che il rischio deflazione non c'è più, però non ha commentato sul fatto che invece siamo su un terreno stabile nell'inflazione a target della BCE. Vuol dire che saremo condannati comunque a galleggiare in una situazione in cui il tasso di inflazione non aiuterà certamente a ribilanciare la sostenibilità del debito italiano, secondo te? Al tasso di inflazione, secondo me, guardare al tasso di inflazione come l'evento decisivo per riequilibrare il debito pubblico è fallace, è un errore, anche un non senso economico. A meno che l'inflazione non sia un'inflazione da domanda, no? Che allora implica fare investimenti per ampliare la capacità produttiva sul piano qualitativo e quantitativo, ma mettersi a chiedere di invocare inflazione, magari con una manovra sull'IVA, per chiudere il gap tra la crescita del PIL e quella del debito. Ma è lì che ti volevo, esattamente. Siamo veramente. È sul commento dell'IVA come leva per far funzionare il meccanismo di inflazione, che hai già scritto. Prendiamo un velo pietoso, perché cioè veramente qui non è neanche economia 101, primo anno di economia politica, no, cioè qui proprio siamo, non lo so io, al bricolage, in un brico center dell'economia, cioè mi cadono le braccia e altre parti anatomiche, guarda. No, sorreggiamole. Chiudo questa la nostra riflessione iniziale settimanale dicendo solo, attenzione, l'intuizione che hanno avuto i 5 Stelle sul fatto che esista un grande problema sindacale agli occhi dell'opinione pubblica, i 5 Stelle hanno presentato questo pacchetto di proposte, di cui una è la riproposizione di vecchie parole d'ordine della sinistra autopista, affoga lavoro e uccidi imprese, cioè vogliono la settimana lavorativa a 4 giorni di lavoro uguale paga. Sei disposto a dare alla tua azienda, Renato? Domani subito. 4 giorni di lavoro uguale paga, sì, magari poi mettiamo l'azienda da qualche altra parte. La mettiamo da qualche altra parte, in decozione. Però l'altra parte del pacchetto, c'è già provato i francesi, l'altra parte, no, quelli arrivavano a 35 ore, si arrivava quasi al 5° giorno di lavoro, qui siamo al 4°. Detto questo, però, c'è un'altra parte di questo pacchetto che intuisce un problema, caro caro Alberto, caro Mario, caro Renato, perché intuisce proprio agli occhi dell'opinione pubblica del fatto che i sindacati non godono di un grande consenso ed effettivamente strabordano. Allora, di questo pacchetto, di questo mix di misure, da una parte vetero marxiste, dall'altra invece apparentemente individualiste per sì, direi vagamente reazionarie, se posso dire. Esatto, individualiste. Beh, bisogna che ne riparliamo più avanti. Vedremo la settimana dopo il referendum che è in corso su Alitalia, e a quel punto ci sarà un'occasione per che farlo. Siamo diventati i nuovi Berlusconi seguaci dei sondaggi. Ma vediamo. Guarda, cioè, io non comprerei perché i fenomeni sono completamente diversi. Orientati molto al sondaggio, così. Non lo so. Secondo me sono orientati da una mano centrale come Berlusconi, che tutti sappiamo è stato il fondatore, dal punto di vista patrimoniale è ancora il punto di riferimento, però a volte ha mano meno ferrea di quanto non sia lì la Casaleggio e Associati. Torniamo tra un minuto e a quel punto l'ospite che è già con noi. Parliamo di Ferrovie dello Stato, lo sapete, intanto fatemelo già ringraziare Baccioncini di aver accettato il nostro invito di essere qua. Buongiorno a tutti. Tra un minuto andiamo al punto con lui dei trasporti, nuovo grande polo dei trasporti pubblici italiani. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta, 10:34 primi e 28 secondi, cari ascoltatori. Conti della Belva, la squadra al gran completo, e alla squadra si è aggiunto però il ritorno di una presenza per noi molto gradita, perché è un manager pubblico che però, ma mettiamolo, intanto sa comunicare, lo fa con sorriso sulle labbra, accetta le critiche, accetta il confronto. Beh, e poi va dritto come un treno, però, se posso dire. Oscar, non la critica al fatto che il treno era in ritardo stamattina, perché ha spaccato il minuto, come tutti i treni che partivano a Brescia questa mattina, se no. Poi uno pensa che sia solo il mio, allora, un servizio impeccabile. Brescia-Milano è una meraviglia. Moderati, okay. Io te lo dico. Allora, qui l'occasione è quella, ovviamente, del tonitruante presentazione dei conti di ieri. Naturalmente non leggiamo, però, dividendo azionista allo Stato 300 milioni, l'EBITDA 2,3 miliardi, ricavi operativi a 8, quasi a 9 miliardi, per carità di Dio non si discute, tutto in attivo, eccetera eccetera. Non abbiamo visto però quanti contributi avete ricevuto dallo Stato nel 2016. Quelli contrattualizzati. Cioè? Beh, dipende. Allora, per quanto riguarda Trenitalia, perché non li ricordiamo, abbiamo nel set iniziale. Sì, ma guarda che non è un problema. Il Fondo Nazionale Trasporti, che è un fondo attualmente stabilizzato nella manovra, se non ricordo male, a 4,8 miliardi, viene a Ferrovie dello Stato per circa 1,5 miliardi scarso, 1,5 miliardi. Quindi il resto va a tutte le aziende di trasporto pubblico locale. È una delle attività di welfare del paese. Non come hai sai, ricevuto 1,5 miliardi però dallo Aspetta, Stato. Ti sto parlando di Trenitalia, quindi servizio di trasporto pubblico locale. Il trasporto pubblico locale è finanziato per consentire ai biglietti dei treni regionali, degli autobus di Milano, di Roma, di avere prezzi calmierati bassi, e 2/3 di questo contributo non va a Ferrovie dello Stato, ma va alle aziende di trasporto pubblico locale, diciamo delle amministrazioni locali. Ricordiamo che il sussidio italiano è tra i più alti d'Europa. Però il sussidio locale sì, è tra i più alti d'Europa, e infatti le tariffe italiane sono le più basse d'Europa. Ricordo solo che un abbonamento a Madrid, stavamo parlando prima della Spagna, voglio dire, un abbonamento a Madrid costa 55 euro al mese, a Milano 35 euro o a Roma 35 euro. Credo che questo dica tutto. Dopodiché, oltre a questo, prendiamo un contributo, e questa, ripeto, è una scelta politica. Peraltro è giusto anche ricordare che questo fondo, Oscar, è un fondo che è fisso ormai da tantissimi anni, e quindi c'è comunque in corso un processo, diciamo, di efficientamento che è partito, diciamo, in tutto il comparto, che ha garantito ormai da quasi 10 anni la stabilità del fondo. Dopodiché c'è invece un ulteriore contributo su RFI, quindi sulla gestione diciamo dei binari. RFI, come sanno probabilmente molti telespettatori, gestisce la circolazione dei treni binari, che si approvvigiona per il 50% dei suoi 2 miliardi circa di costo dai pedaggi che pagano le imprese ferroviarie, Trenitalia, NTV, SBB, Merci e quant'altro, e 1 miliardo viene da contribuzione pubblica. Anche questa è una scelta di tipo, diciamo, regolatoria. nel senso che si è scelto di non far pagare tutto il pedaggio alle imprese, perché se si faceva pagare il pedaggio più alto ovviamente salivano il prezzo dei biglietti, e quindi dal nostro punto di vista la contribuzione pubblica, voglio dire, è una scelta di tipo regolatoria a cui faremmo tranquillamente a meno se potessimo metter mano ai prezzi dei biglietti. Però mettiamola nel set di dati, perché sennò i giornalisti se lo dimenticano e invece il lettore ha diritto di sapere che ogni anno questa impresa sta in piedi grazie a questo. Non significa negarne. No, no, però Oscar è corretto dire che un conto è un corrispettivo, cioè un conto è un contratto in cui contrattualizziamo quanto costa fare un certo servizio, e se questo servizio lo Stato vuole che un po' lo paghi il cittadino e un po' lo paghiamo con tasse, è una scelta. Però parliamo di futuro adesso. Allora, parliamo di futuro, perché il governo ha deciso, dopo 2 anni di dibattito molto opaco, sulle diverse modalità da seguire possibili, perché si parlava di fusione, sarà un'incorporazione quella di ANAS in Ferrovie dello Stato, quindi si arriverà a 10 miliardi di fatturato, 75 mila dipendenti, 43 mila chilometri di reti sommando quelle di ferro e quelle delle strade e autostrade gestite dall'ANAS, però si arriva a questa decisione assunta in maniera opaca. Perché non ci convince? Adesso c'è un altro ospite, però io dico subito, siccome sono anni che me ne occupo, non mi convince per una serie di ragioni, e però devo pregare i due ospiti di essere sintetici nel toccarla, perché sennò noi ci abbiamo tempo anche dopo la pausa delle 11, però dobbiamo far capire a chi ci ascolta. Le mie obiezioni le dico subito. Primo, l'ANAS non sa quale sarà il suo nuovo contratto di servizio, anche l'ANAS dipende, è un'attività regolata, no? Quindi non lo sa. E allora, come si possa quantificare un'operazione senza che noi, è 2 anni che si discute, il nuovo contratto di servizio pubblico dell'ANAS, come sarà fatto? Non lo sappiamo. Non lo sa Armani, che è il capo dell'ANAS e che sta facendo un buon lavoro, perché Armani ha ereditato una cosa che aveva dei problemi non invidiabili. Come? Non lo sa Mazzoncini, che è qua. Dei privati farebbero un'operazione in queste condizioni? Risposta: no. Uno. È così. Due, il piano industriale dell'ANAS, quello annunciato l'anno scorso, da Armani appunto, che si trovava a dover far girare numeri un po' problematici, non per sua responsabilità, è un piano che uno va a vedere. I margini, quelli da aziendali, non quelli dei trasferimenti delle risorse pubbliche per fare i miliardi di investimenti, ma quelli aziendali erano, qui faremo 520 milioni di risparmio di costi, 50 milioni di aumento delle cose. Ma perché? Perché ANAS è in una condizione di stress finanziario evidente. Terzo, c'è 9 miliardi di contenzioso. Armani anche lì ha fatto presente al governo: signori, io che cosa posso fare col bilancio che ho, con gli accantonamenti? Il governo gli sblocca 700 milioni che erano per un fondo rischi di tutt'altra finalità. E anche lì, anche lei ieri ne ha parlato e ha detto: vedremo, chiameremo un advisor. Quindi il problema esiste. In queste condizioni qua, nessun privato farebbe operazioni di questo tipo, perché non c'è la certezza, esatto, di nessun tipo. Il pubblico le fa, ma perché il pubblico è fuori. Ma questa incertezza è alimentata proprio dalla mancata chiarezza del governo e delle norme. A questo aggiungo opacità delle gare. Perché faccio un caso, io con Moretti discutevo, il suo predecessore, discutevo sempre su di alcuni gangli tra porti e rete ferroviaria, lavori da fare. E lui mi dice: a me non mi convince quel piano. Dico: ma non può essere il fatto che lei non la convince. Ci sono valutazioni di costo-beneficio, terzi indipendenti per decidere se è un interesse di RFI, in quel caso RFI, di fare questa roba oppure no. La risposta era sempre: no, decido io. Allora, adesso che vi mettete ANAS in casa, ci saranno tutta una serie di scelte che verranno influenzate dal fatto che ferrovie, che c'ha dentro pezzi di strade e autostrade, saranno meno gare, si alza l'asta per partecipare alle gare, condizioni più opache, rischi di trasferimento incrociati per attività che nel bilancio ANAS sono regolate pubbliche rispetto a gestione di concessioni autostradali in concorrenza con i privati. E qui io mi fermo qua, perché è una roba di fronte alla quale io non ce l'ho con Armani e con lei. Dico che è una decisione assunta in un modo che chiunque abbia a cuore mercato, trasparenza, opacità, allarga le braccia e dice: non conto un cazzo e non è il paese per me, me ne voglio andare. Non è possibile che mi si dica l'efficienza è mettiamo tutto insieme, quando un privato, un advisor direbbe: auguri ragazzi, credete molto nel vostro padrone, lo Stato, ma tutti questi problemi ve li dovrà risolvere lui. Allora, questa premessa, e taccio perché d'ora in poi ci parlano solo altri, sbaglio su tutto, secondo lei, Mazzoncini? Sì, sì, assolutamente. Adesso, allora, non so quanto tempo abbiamo, no, però diciamo che sono convinto che nei prossimi 15 minuti sì, ti convincerai anche tu del contrario. Ma, allora, può essere. Parto velocemente. Prima cosa, quando è partita l'idea e come è partita? Visto che hai parlato di 2 anni, invece l'idea è nata il 16 febbraio del 2016, quindi un anno fa, su un aereo, mentre stavamo rientrando da una missione in Iran, io, Gianni Armani e il ministro Graziano Del Rio. Cosa facciamo in Iran? Eravamo andati in una missione riaprire, diciamo, i rapporti commerciali alla fine delle sanzioni tra l'Italia e l'Iran sul tema infrastrutture. Ovviamente durante quei giorni sia io che Gianni avevamo avuto rispettivi incontri con i rispettivi referenti di infrastrutture ferroviarie e stradali. C'è un grande progetto di infrastrutturazione in Iran e l'Italia è sempre stata, come forse molti sapranno, uno dei principali partner commerciali dell'Iran, cosa per il nostro mercato estero molto importante. Bene, mentre rientravamo, un po' stanchi da queste missioni un po' stressanti, con Gianni stavamo facendo il punto su come ci saremmo organizzati in Iran per essere, come dire, più efficienti nella possibilità di realizzare poi business lì. E dopo, come dire, una mezz'ora che discutavamo, incominciamo a renderci conto che sarebbe stata una cosa assolutamente logica avere una società unica in comune in Iran, perché le attività da fare erano in larghissima parte le stesse. Quando tu realizzi un'opera, il tema di tipo amministrativo, un tema di esproprio, un tema di finanza, l'ingegneria è assolutamente comune. Tu pensa che a ingegneria, come sapete, io sono un ingegnere, si studia un esame che si chiama progettazione di strade e ferrovie. Ma come dire, non c'è un solo gruppo, grande gruppo ferroviario nel mondo che faccia gestore di concessione. Aspetta. Non ce n'è uno. Fammi andare avanti. A questo punto, concluso che sarebbe stato del tutto logico e se riusciremo ad andare avanti in Iran lo faremo, abbiamo incominciato per derivata a chiederci, ma a questo punto, se ci sono tutte quelle sinergie lì, per quale ragione non lo facciamo qui? Questo solo per dire che, quindi, siccome a volte i cittadini pensano... Quindi è un'idea comeinista, stai spiegando. No, io sto... esatto, bravo. No, dico che siccome a volte i cittadini pensano che queste idee nascano da chissà da quali trame, da quali... No, sto solo dicendo che è nato da due persone che evidentemente conosci, perché hai parlato anche di Gianni, molto pragmatiche, che hanno messo in piedi un'esigenza di tipo strettamente industriale. A quel punto, che non è solo costruzione, anche gestione, però, Mazzucci, anche gestione, perché il vero tema non è costruire, ma governare le infrastrutture tecnologicamente convergenti, perché una strada e una ferrovia ormai sono, come dire, sistemi elettrificati e informatici fondamentalmente analoghi. Assolutamente. Questo, no, però, cioè, no, Oscar, il fatto che non ci sia nessuno è irrilevante. No, ragazzi, non dite puttanate. Gianni, Oscar, attento, perché adesso ti dico anche chi c'è che lo sta già facendo, quindi aspetta dalla... Dicono, non lo fa nessuno. Questo, allora, sì. A questo punto cosa succede? Succede che il ministro dice, va bene ragazzi, mi sembra una cosa interessante, approfonditela, e quindi siamo rientrati e abbiamo incominciato a lavorarci. Sono emersi dal punto di vista industriale delle sinergie evidenti immediate. Allora, il lavoro, e lo capisce qualunque ascoltatore che ci sta seguendo, il lavoro di costruire una strada o una ferrovia è identico, preciso, se fai un ponte, una galleria, un viadotto, un rilevato, tranne il fatto che alla fine uno mette l'asfalto, l'altro mette i binari e poi i nostri mettono la tecnologia, l'elettrificazione e il sistema di segnalamento, che ancora sulla strada per ora non c'è. Quindi è chiaro che facciamo un lavoro molto simile, tanto è vero che nel recente passato, parlo per esempio della terza corsia dell'autostrada Milano-Torino, per dirne una, è stata realizzata da RFI perché aveva aperto il cantiere dell'alta velocità, per dirne una. Ok. Ora, prima hai detto una cosa corretta, nessun privato farebbe questa operazione senza avere due certezze, cioè qual è il contratto che regola ANAS con il Ministero e cosa si fa del contenzioso. Perfetto, sono totalmente d'accordo. Siccome Ferrovie dello Stato si comporta esattamente come un'azienda privata, essendo peraltro fortunatamente fuori dalla pubblica amministrazione... Questo è il vero motivo per cui si fa, per levare mezzo miliardo... Ah, calma, aspetta. Abbiamo inserito due condizioni all'interno del decreto legge proprio per difendere Ferrovie su questa operazione, molto importanti. La prima condizione è che sia sottoscritto il nuovo contratto tra ANAS e il Ministero, che è quello su cui Gianni sta lavorando da mesi e che è un contratto estremamente innovativo rispetto alla situazione attuale. ANAS è nella pubblica amministrazione non solo perché è direttamente posseduta dal MEF e non emette bond, ma anche perché il tipo di contratto con cui attualmente lavora è un contratto, diciamo tra virgolette, che paga a piedi lista i suoi costi, come può essere quella di un qualunque altro ufficio pubblico. Mentre siccome ANAS ha già attualmente oltre 2000 punti di rilevazione del traffico stradale, oggi si può sicuramente fare un contratto che vada a pagare ANAS in base all'effettivo servizio che viene fornito, che è quello che viene fatto con RFI oggi, perché RFI oggi può emettere un pedaggio regolato dal regolatore dall'ARTA, autorità dei trasporti, perché ha dei sistemi di misura dentro, dire io ti do Ma tu capirai, ti do la cosa per la seconda parte della risposta, cioè quella sul contenzioso. La mia preoccupazione, ma come osservatore, non perché io diffido dei capi azienda, a mio giudizio, se dopo potevo dire, siete tra i migliori che quei gruppi hanno avuto nella storia. Grazie. È così, ma per come siete di mentalità, anche perché il tempo cambia, arrivano persone più di mercato. Detto questo, la preoccupazione che ho io è che invece, siccome quell'orrendo contratto precedente di servizio, per chi la pensa come me, dico, non c'è niente di illegittimo, cioè pagare a piedi lista, in parole povere, fonte a cui appendiamo enormi anomalie della parte invece dei concessionari autostradali privati, perché noi abbiamo le concessioni segretate in Italia anche per l'orrendo contratto di convenzione che ANAS ha avuto per sostenere i suoi costi. Tutto si tiene quando una cosa è sbagliata e i privati ne approfittano, quindi come vedi sono critico dei privati nel sistema concessionario autostradale. Però detto tutto questo, la mia preoccupazione è che quando si tratterà di stenderlo, lo Stato dovrà dire sì, ma qui per gli oneri da contenzioso io devo tutelare le ferrovie, perché ma ci ha ragione. Adesso rispondo anche su questo. Esatto. Adesso ti rispondo anche un su minuto questo. Però di pausa sul traffico, appunto. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Allora, eccoci qui tornati. Eravamo arrivati, visto Oscar, il contratto di servizio, e sì, insomma, ci ha detto Mazzoncini. Vediamo. Mi fate dire una cosa da imprenditore. Io mi aspettavo che facessero l'integrazione ANAS e FS perché facevano le autostrade elettriche per le macchine elettriche. Dai, vabbè, questo lo faremo nel prossimo futuro. Lo faremo. Non è su quello che lo freni a Mazzoncini. Contenzioso. Allora, solo per chiudere, il nuovo contratto di servizio o c'è o ANAS non passa, perché è una delle condizioni. Quindi, ed è molto importante che passi questo nuovo contratto, perché per far capire a tutti, un'azienda che riesce a incassare i ricavi in funzione del servizio che dà è un'azienda. Un'azienda che viene pagata a piedi lista non è un'azienda. E quindi lo sforzo che sta facendo Gianni nell'operazione del contratto è quello di trasformare il contratto di ANAS in quello di un'azienda vera, che cioè si un'azienda fa misurare. Si fa misurare e in funzione della qualità e della quantità di servizio che dà prende i soldi. Secondo contenzioso. Infatti, anche se qui non è presente, io ci tengo a dire che noi riconosciamo ad Armani questo suo indirizzo che ha dichiarato sin dall'inizio. Allora, questo contenzioso ce l'abbiamo anche noi in RFI, ok? Che contenzioso è prevalentemente? Sono le riserve che le aziende che prendono gli appalti fanno sui lavori. Esatto. Ok, benissimo. Sai a quanto li transiamo normalmente questi contenziosi? In RFI al 6% del petitum, uso questo termine latino. Cioè uno chiede 100 e tu paghi 6 e con quello chiudi. Bene. Allora, che cosa è successo a questo punto? In ANAS alcuni, ultimamente proprio, sono stati transati a 0 addirittura. Allora, quindi il tema è che è stato valutato, ovviamente adesso deve essere fatta una perizia di stima, che i 700 milioni inseriti all'interno del decreto, che sono soldi sbloccati, più i 200 di fondo che c'erano già, bastino quindi 900 milioni di euro, che sono pari al 10% del contenzioso, sia capiente, rispetto alle transazioni che si fanno su queste operazioni. Hai dato un occhio al track record storico del transato invece in ANAS? Il track record storico in ANAS è il 9% contro sei nostro. Allora, a questo punto che cosa faremo anche qua? Faremo fare una perizia fatta per bene, perché non voglio portare ovviamente minusvalenza all'interno del gruppo Ferrovie, e solo quando ci sarà un perito che ci dirà che quel fondo è capiente rispetto al contenzioso si sbloccheranno le due condizioni che consentiranno in maniera molto trasparente e niente affatto opaca di portare ANAS all'interno del gruppo Ferrovie. Il fatto di portarla all'interno del gruppo Ferrovie sblocca poi tutta una serie di cose, tra cui, al contrario di quello che dicevi, fare più gare, nel senso che oggi all'interno di Ferrovie tutto viene acquistato con gare, voglio dire, e come sai sicuramente RFI è una delle più importanti stazioni appaltanti del paese, voglio dire, anche ANAS lo sta facendo evidentemente, però è chiaro che le strutture che abbiamo all'interno di un gruppo che ha 70.000 persone contro le 6.000 di ANAS sono strutture completamente diverse per gestire, per gestire io guardo la spesa per Information Technology e non c'è paragone in questo senso. La premessa è che c'è il riconoscimento di due problemi fondamentali, in assenza da cui risposte i privati non lo prenderebbero, e dico prendiamo atto lo Stato, adesso vediamo. Detto però tifo questo, per Armani, questo mi devo dire che tifo per Armani. Detto questo, devo dirti che credo che ci sia grandissima parte dei lavoratori dell'ANAS che stanno ormai tifando per questa operazione. Questo mi è chiaro, perché è chiaro che per loro vuol dire diventare un'azienda vera. Questo come lo siamo resta noi, resta il fatto che nel resto del mondo è fermo. Abbiamo con noi il professor Ugo Arrigo, che insegna scienze delle finanze, finanza pubblica, Università Bicocca di Milano, che vi segue da anni. Professor Arrigo, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, lei è entusiasta di questa cosa, cioè lei è convinto che non ci sono problemi, che sbaglio io a sollevare i problemi? Che pensa, professor Arrigo? Allora, dunque, quando è emersa la prima ipotesi mi sono detto, oddio, che operazione, neanche nella Russia di Brezhnev. E ovviamente era una prima reazione da sostanzialmente economista liberale. Impenitente liberale. Però, ragionandoci con serenità, con calma, eccetera, in realtà non sono così, diciamo, della mia identica idea di partenza. Nel senso che in realtà questa cosa qui non è avvenuta in nessun paese, tranne in uno, che è la Svezia. In Svezia hanno fatto due cose molto interessanti che a me piacciono molto. Nel lontano 1988 un governo socialdemocratico, quello diretto dal successore di Olof Palme, separò la rete ferroviaria dal servizio ferroviario. Ecco. Poi lì hanno fatto altre riforme. Nel 2000 hanno integrato il gestore della rete ferroviaria col gestore della rete stradale, quindi creando un qualcosa che è molto simile a quello sul quale adesso Sembra che sia uno spacchettamento tra realizzazione e gestione di infrastrutture da offerta di servizio. Non lo so, io non la leggo così. È un pezzo del modello svedese. Allora, se lo adottassero integralmente, io sarei entusiasta. Allora, giriamo quest'altra suggestione però in Svezia ha fatto anche un'altra cosa, cioè l'elettrificazione delle strade, che per me è molto importante. È un tema di governo delle infrastrutture logistiche di un territorio. Mazzoncini, allora, ho preso su e sono andato in Svezia a vedere con i miei occhi e oggi cosa avevano combinato. Che separi e cedi la gestione dell'infrastruttura dall'offerta di servizi. Adesso ti dico cosa ho visto però in Svezia, perché gli svedesi sono molto pragmatici. Loro hanno fatto un ragionamento molto semplice, hanno detto: vogliamo decarbonizzare al 100% il trasporto delle merci entro il 2030. Bene, al 100%. Allora, a questo punto hanno detto: bene, le spostiamo su ferrovie, ferrovie sono elettriche. No, non ci stanno, come non ci starebbero da noi. È assolutamente utopistico pensare che tutte le merci possano spostarsi su ferrovia, perché non c'è spazio. Non c'è dubbio. Allora, anche perché il tragitto spesso è molto breve e frammentato. Allora hanno detto: bene, se a questo punto non possiamo spostarle tutte, ma dobbiamo decarbonizzare, la soluzione è solo di elettrificare le strade. E quindi che cosa hanno fatto? Proprio perché hanno un gestore integrato e proprio perché c'è stata questa osmosi di ingegneria tra le due aziende, hanno incominciato a creare delle sperimentazioni con delle linee di contatto esattamente identiche a quelle che ci sono in ferrovie sulle strade, e hanno incominciato a realizzare dei camion ibridi con il pantografo. Hanno prima separato la rete dai servizi. Ma non c'entra nulla. Che non ci sentite mai? Non c'entra nulla. Oscar, mi dispiace, caro Alberto. Oscar, c'entra perché i sussidi incrociati ci sono. Torniamo dopo il giornale radio. Non abbiamo finito, siamo sempre qua. Va bene, litighiamo anche dopo. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, eccoci tornati qua in diretta in uno studio affollatissimo, oltre ai compari Conti la Belva e con Renato Mazzoncini, il capo azienda di Ferrovie dello Stato, impegnato in questa operazione decisa dal governo, ormai insomma nel decreto che stiamo attendendo ci sono anche i paletti necessari per compierla, quella di incorporazione con ANAS, ed eravamo arrivati a un'osservazione del professor Ugo Arrigo, che è anche con noi, che diceva però in Svezia, sia pure con la separazione tra rete e servizi, sono andati in una prospettiva di quel tipo. Esatto, in Svezia stanno mettendo insieme fisicamente le due reti, i due gestori delle infrastrutture, e l'osmosi tra le due ingegnerie, tra le due strutture, sta generando delle specie di ibridi bellissimi che sono queste strade elettrificate, dove girano dei camion con il pantografo e dove il livello di elettrificazione, quindi la decarbonizzazione del trasporto, che è uno dei problemi principali del nostro pianeta, sicuramente in Europa e in tutti i paesi occidentali, si risolve non solo sulla ferrovia, che ha una capienza necessariamente limitata. Ricordo che in Italia abbiamo 27.000 km di ferrovie e 180.000 km di strade, quindi è evidente che non è che si può affrontare il tema della mobilità senza occuparsi delle strade. Ora, il problema è che le ferrovie negli ultimi anni in Italia certamente sono diventate, dal punto di vista tecnologico, un benchmark incredibile e infatti esportiamo la nostra tecnologia ferroviaria in tutto il mondo. Il sistema di segnalamento italiano, che è quello che evita collisioni sulla nostra rete dal 2006, voglio dire, è un'eccellenza, è diventato lo standard europeo. Sulle strade, a livello globale, il livello di tecnologia è ancora bassissimo. Infatti, quando Elon Musk lavora per la sua Tesla, l'autopilot, o anche la Google, stanno lavorando per riempire la macchina di telecamere che guardino la strada. Sì, perché la strada è stupida. Perché la strada è stupida, ma nel momento in cui viene la neve, la strada sarà ancora più stupida, perché a quel punto non vedi neanche le righe o la segnalazione stradale che c'è. Esatto. Allora, è irrisolvibile il problema del driverless. Perfetto. Senza un'infrastruttura che risponde. Allora, cosa è che bisogna fare, secondo me, immaginando un pianeta che viaggi con auto elettriche? E penso che questa sarà sicuramente la prospettiva. Io viaggio in auto elettrica poco, perché viaggio sempre in treno, dal 2001, e sono assolutamente convinto che ci mancano pochi anni alla completa sostituzione delle auto termiche. Però bisognerà avere strutture, bisogna strutture di ricarica, e probabilmente i sistemi potranno essere o punti di ricarica veloce, oppure strade che con meccanismi a induzione ricaricano i mezzi mentre si muovono, oppure sistemi a pantografo, insomma a seconda del tipo di mezzo. E poi sistemi di segnalamento, cioè un sistema che dica al mezzo di trasporto, con delle boe a terra, come c'è sul sistema ferroviario, guarda che questa è la strada, seguila, cosa che ridurrà gli incidenti, che ridurrà, aumenterà la sicurezza Arrigola, stradale. È tutto bene, tutto a posto, osservazioni? Beh, no, sì, io devo dire, sono entusiasta del modello svedese, quindi su questo sono totalmente d'accordo con l'ingegnere Mazzoncini, quindi queste cose sono molto avveniristiche, ma credo che sia necessario lavorarci. Io sono anche un sostenitore del modello svedese dall'altro versante, ma questa è una mia posizione storica. Io ho tentato, vent'anni fa ho iniziato a occuparmi di bilanci ferroviari più di vent'anni fa, devo dire che quelli di allora erano non comparabili agli ultimi, anzi colgo l'occasione per congratularmi per quello chiuso ieri, e quindi le ferrovie hanno fatto passo da gigante, però il modello svedese è un modello che va studiato anche in tutti i suoi aspetti. Loro sono stati precursori anche nella separazione della rete rispetto al trasporto, con secondo me la riforma ferroviaria migliore, molto migliore rispetto a quella britannica, che ha avuto che poi ha avuto dei rebound e ritorni indietro sulla rete, quindi non c'è dubbio. Però allora, Professore, io intanto la ringrazio perché sia come dire l'endorsement sul nostro ultimo bilancio e sia il fatto che un modello di gestione delle infrastrutture integrate sia un modello che vede anche lei positivo è una cosa importante. Devo dire che quando sono arrivato in Ferrovie poco tempo fa, il 1° dicembre 2015, certo, c'era ancora la discussione sulla separazione di RFI. Oggi addirittura viene conferita ANAS, quindi voglio dire, no? Siamo, però diciamo, all'opposto. Però è successa una cosa importante nel frattempo. Cioè, quelli come me continuano a straperdere. Sì, Oscar, però è successa una cosa importante nel frattempo. Ed è una cosa, cioè, l'opacità di Stato. Però c'è stata una cosa importantissima. È stato approvato a livello europeo il quarto pacchetto ferroviario. Questo, giusto. Con un relatore italiano, Davide Sassoli. E con Ferrovie dello Stato, che contro anche le altre grandi aziende ferroviarie ha fatto una battaglia per la liberalizzazione del trasporto ferroviario lunga percorrenza in tutta Europa. Certo. E all'interno del pacchetto ferroviario, dopo ampia analisi, si è concluso che si possono tenere gruppi integrati, cioè come noi o come Deutsche Bahn, cioè, o come Ferrovie francese, hanno vinto gli ex monopolisti, che ci sia una chiara separazione contabile, che eventuali utili che vengono a gestione infrastrutture rimangano lì oppure vadano allo Stato, e che non ci sia sussidi incrociati, che peraltro da noi non ci sono da anni, quindi è una cosa che non ci genera nessun tipo di problema. Ma questa regolamentazione a livello europeo e il fatto che poi c'è un regolatore, noi oggi abbiamo un regolatore, l'autorità di regolazione dei trasporti in Italia è stata la prima autorità di regolazione nata in Europa e che ha proprio l'obiettivo di vigilare anche su questi temi. Quindi, come dire, siamo passati da una situazione in cui c'era un quadro regolatorio che avrebbe potuto consentire opacità a un quadro regolatorio di cui oggi non potete che dare atto che tra forse domani l'imperatore e regolatore devi dire a un quadro che forse domani promette di non... Però Oscar, c'è un'altra infrastruttura che sta nascendo, ragazzi, e che voglio che venga separata dai servizi. L'infrastruttura, diciamo, dell'integrazione digitale della travel experience. Scusa se poi, perché questo è quello che riguarderà poi la gente che viaggia in macchina o in treno. Domani. Intanto io mi preoccupo dei problemi. Perché dici domani? Io compro l'80% di quello che compro. Il mio problema... Renato, ci puoi spiegare? Carlo Alberto, il mio problema, e qui finisco poi, il mio problema è quello di continuare ad avere interlocutore questo Ferrovie dello Stato, come interlocutore. Se domani quelli che fanno il mio mestiere vedono che c'è un rebound negativo nella gestione da parte dei privati, che è molto discutibile, le concessioni autostradali, perché è il prezzo che lo Stato paga ai privati, quindi sto parlando, come vedi, di questo, per non avere le scatole rotte invece su come sistemare ANAS, e lo dico sostenendo Armani, ecco, io continuerò a criticare, ma come vedi ne faccio un'osservazione di sistema, cioè io voglio la trasparenza dei prezzi, dei costi, delle concessioni che non possono essere più segretate. Spero che con l'incorporazione anche tu per primo dirai rendiamole pubbliche, non è possibile avere le equazioni con cui si calcolano il ritorno degli investimenti effettuati segretate. Ma dove siamo? In Kazakistan? Ecco, allora, questa è la vera preoccupazione per cui faccio queste obiezioni. Guarda, noi credo che sia difficile dire che non facciamo della trasparenza veramente una missione, e quindi lo stiamo facendo in ferrovie, e sicuramente qualunque cosa che entra nel perimetro di ferrovie seguirà la stessa logica. Detto questo, devo dire che quando parliamo, un po' di tempo fa c'era, quando è uscita la prima notizia su ANAS, è uscito un articolone, non mi ricordo su quale giornale, forse era Marco Ponti, che diceva Ferrovie il gigante che fa paura, e io mi interrogavo e mi chiedevo, ma di quale gigante, visto che io mi sento un nano in Europa? Cioè, siamo in una situazione in cui le Ferrovie dello Stato italiane integrate attualmente stanno arrivando col bilancio approvato ieri a 9 miliardi di fatturato, quando le ferrovie tedesche ne fatturano 44 e le ferrovie francesi 31. Di cosa stiamo parlando? Di quale gigante stiamo parlando? Cioè, qual è il nostro mercato? Perché se il nostro mercato domestico è l'Europa, come io ritengo, i player con cui giochiamo sono quelli. Se il nostro mercato invece è quello italiano, vuol dire che siamo morti, allora siamo sicuramente dei giganti. Il problema è che bisogna solo decidere in quale casa vuoi stare. Dal nostro punto di vista, noi stiamo in casa Europa, ed è la ragione per cui quest'anno abbiamo comperato le ferrovie greche, abbiamo comperato una linea ferroviaria in UK, e se ci pensi anche questo è bello. Fatto che abbiamo fatto un'acquisizione in un paese aggrappato all'Europa, tentate come la Grecia, tentate anche di vincere gare in Europa dove di solito non ci facciano entrare, in un paese che è uscito dall'Europa perché pensa di essere più furbo degli altri, e che noi in mezzo a questa Europa, la vecchia Europa, siamo centrali, e siamo oggi prima impresa ferroviaria in Italia, la prima in Grecia, la seconda in Germania, abbiamo due aziende in UK, in Francia, e stiamo lavorando per una gara in Olanda, credo che la dica lunga sul fatto che vogliamo essere comunque un player europeo e non può essere oggi un nano. Mi hai aperto europeo. Un'idea perché dobbiamo chiudere. Mi hai aperto, io ci credo così tanto che era su quell'aereo che è venuta l'idea, perché sono nel paese ovviamente dei mullà di Stato, poteva nascere una cosa di questo genere. No, non è vero, è una battutaccia. Ma comunque, io spero che sia stato chiaro, chiunque ci abbia ascoltato, che lo spirito è aperto. E io però devo dire, viva un capo azienda che accetta di parlare con questo, in questo modo, e dice in faccia: no, lì non hai capito, oppure qui vediamo su questi punti. Viva sulla, perché questa è una cosa, va bene, la travel experience un'altra volta. Non me la vuoi fare una domanda, Renato, in radio. Il tempo è volevo tirato. Chiedergli se compra o no. Ritorno, è finito. Ritorno a pubblicità, parlare. Pubblicità, pubblicità. Stazione di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta, cari ascoltatori. Beh, come avete visto, non ci manca la esplicita maniera di confrontarci su questi, tutti questi temi. E comunque devo riconoscere, il capo azienda dei Ferrovie dello Stato non si nega a un pugilato aperto e rispetta le regole della comunicazione. Guardate, è un'eccezione nel mondo pubblico italiano, è un'eccezione. Tu che ne pensi, Mario? Perché noi qui ci ho dovuto tenere a bada, erano 3-1 in studio, non so se sia stato chiaro. Io volevo fare solo una domanda sul sito e mi ha detto che lo rifà e basta. Ecco, sì, te lo rifà, benissimo, sì, te lo rifà. Però Mario, a me interessa sapere la tua opinione su tutta questa vicenda qua. Che pensi tu? Ma premesso che Mazzoncini è un ottimo comunicatore ed è molto difficile da contenere perché è un entusiasta, diciamo, e per cui è difficile dire questo, io sono abbastanza d'accordo con Ugo Arrigo, nel senso bisogna evitare, è vero che ci è stato promesso che sussidi incrociati verranno evitati, eccetera, però cioè, le promesse lasciano il tempo che trovano. Anche questo discorso dell'integrazione così spinta, non lo so, cioè io forse sono un troppo liberale classico e quindi resto perplesso. Carlo Alberto ha detto che bisogna smettere di parlare di campioni nazionali, bisogna misurarsi su scala continentale, forse stiamo acquisendo la massa critica, però oltre alla massa critica c'è un mercato domestico, cioè non dimentichiamo che come ha dichiarato lo stesso Mazzoncini ieri in una lunga intervista alla Stampa, no? La presentazione dei conti, abbiamo come linee di profittabilità al primo posto i treni regionali e la rete, solo dopo l'alta velocità, ma tu guarda la coincidenza, i treni regionali sono in regime di assenza di concorrenza, quindi no, non mi stupisce che lì sia redditività. Quindi poi sai, poi altra cosa che mi ha lasciato perplesso, diciamo, di quell'intervista, ma che era stata già affrontata da Mazzoncini nella sua precedente ospitata da noi mesi addietro, era questa velleità, vocazione, tentativo di creare un'app, una piattaforma integrata di trasporto. E cioè, invece, io non sono sicuro che lo debba fare necessariamente FS. Una cosa questa di questo è la cosa invece di cui è molto convinto Carlo Alberto. No, io sono convinto che non debba esserci monopolio su quello, che voglio API, voglio un'esposizione dei dati in modo tale che ci possano essere invece competizione. Guarda, il nuovo monopolio è proprio quello lì, stai dicendo bene, sulla piattaforma. Io non voglio che nasca un monopolio informativo su questo, perché solo quello garantisce invece grande competizione sull'accesso alle infrastrutture. Intendiamoci su questo, magari ci torniamo la prossima volta. Assolutamente. Ok, allora a questo punto però la prossima volta chiamiamo anche Armani, però. Perché la questione nasce su come risolvere il problema dell'ANAS, non il problema Armani, che è stato chiamato all'ANAS per risolverlo, però è questo il punto, eh? Cioè, i viadotti non cadono a caso in Italia, ecco. Capiamoci su questo, perché dietro ci sono anni e anni di un gruppo la cui natura di ircocervo, per metà concorrenza nella gestione delle concessioni autostrade, per l'altra metà realizzazione e controllo degli stessi altri concessionari, ne aveva fatto una roba senza senso. E oltretutto gestita territorialmente con falle enormi di illegalità. Questo è nella storia, purtroppo ANAS era diventato anche questo, adesso molto meno. E la questione è come risolverla la faccenda. Comunque continuiamo a occuparcene e giriamo pagina, perché i francesi domenica hanno in mano, e nel secondo turno soprattutto, poi ci saranno le legislative, una arma potente. Però, mai come questa volta il primo turno è fondamentale, perché è fondamentale, così incerto, perché ragazzi, dei quattro candidati non sappiamo bene. Il primo turno anni fa, allora, era sostanzialmente scontato, no? Al massimo c'era da capire se destra o sinistra. Io dichiaro subito, se per me l'ipotesi peggiore è che al secondo turno vadano Le Pen e Mélenchon. In quel caso vince la Le Pen, disastro garantito. Disastro garantito, poi non so cosa dirvi. Tu dici ma? No, io penso che non vinca la Le Pen, anche se va bene, io penso che i francesi piuttosto diventano comunisti, ma non diventano reazionari, no. A me sembra la riproposizione riattata ai tempi di uno scenario Francia anni 30. La Francia più e più volte nella sua storia, che pensano molto che ne ignorano la storia, secondo me, penso che la Francia è un paese in cui hanno sempre governato i luministi. La destra e la sinistra hanno presentato alternative brutalmente contrapposte spessissimo nella storia francese, quindi non sarebbe una grande novità, ma per come sta messa l'Europa, per me sarebbe una tragedia, devo dire la verità. Detto tutto questo, io penso che per esempio Macron nei sondaggi sia un po' sopravvalutato, può essere che mi sbaglio, vediamo un po', penso che Fillon sia un po' sottovalutato. Forse lo è anche come personaggio politico un po' sopravvalutato. Beh, diciamo che in campagna ha ottime idee, però lui ha un delivery, una capacità di resa molto bassa secondo me Macron, cioè non è nato per fare l'oratore e comunicatore politico, c'è dietro una scelta però di ragionevolezza che vede per fortuna una parte dei francesi convergere su di lui, sia pur in assenza di un partito, sono tante novità. Comunque la Quinta Repubblica è saltata in aria, per essere chiari, tutti e quattro i candidati sono espressione di una logica di questo tipo qua. Ma sentiamo da Francesco Maselli, a cui spessissimo abbiamo fatto riferimento perché ha iniziato a seguire da tempo ed era osservatore della politica francese prima, e giornalista, vive a Parigi, scrive tra gli altri sugli statigenerali.com e ha aggiornato settimana per settimana, man mano che si avvicinava il voto dei francesi, un suo osservatorio permanente, andando ad ascoltare i candidati nei diversi quattro angoli della Francia. Allora Francesco Maselli, che ci dice, come si arriva, come fare una tara possibile di sondaggi che hanno tutti un bias statistico dentro sulle serie storiche? Tu che pensi, che aria senti col naso? Ciao Oscar, innanzitutto buongiorno a tutti. È molto difficile, l'aria che si respira è l'incertezza. Tra l'altro, secondo me, addirittura aumentata da questo attentato che c'è stato purtroppo giovedì sera, che probabilmente non avrà un impatto, comunque molto difficile capire che impatto avrà sul voto di domani. Di sicuro strutturerà la campagna del secondo turno intorno al tema terrorismo, islamismo e come si combatte, insomma, questo. Penso che su questo possiamo esserne abbastanza certi. E tra l'altro non avremo uno strumento per misurare chi se ne avvantaggia, perché oramai è tutto sospeso. No, oramai l'unico strumento che abbiamo è il voto dei francesi. L'unica cosa che molti sondaggisti nella giornata di ieri, anche stamattina, facevano notare è che un avvenimento del genere può avere delle conseguenze sulla partecipazione, cioè i francesi potrebbero mobilitarsi di più. Per fare, diciamo, per unirsi. Chi si avvantaggia del tasso di partecipazione eventualmente più alto? Anche questa è una bellissima domanda, perché normalmente dovrebbero avvantaggiarsene i partiti più antisistema, nel senso che la parte di Francia che non va a votare in genere è molto giovane, più povera, che non ha niente a che fare con la politica e non vuole avere niente a che fare. Per cui in genere quando la partecipazione cresce sono queste parti dell'elettorato che normalmente non vanno a votare. Però quello che è successo a François Fillon, che è caduto nei sondaggi dopo gli scandali eccetera, probabilmente ha portato una parte del suo elettorato storico nell'astensione. Io non credo che siano passati tutti in massa su Macron. Nemmeno io. Credo che Macron sia un personaggio abbastanza trasversale da questo punto di vista. Io ieri di sicuro, per esempio, pertanto per fare un esempio, gli elettori della parte cattolica più, io uso adesso nel rispetto, ma per capirci, non stiamo parlando semplicemente di moderati, di veri conservatori, cioè quelli della Vandeana, i Vandeani sanfedisti. La Manifporto, per capirci, quella roba lì non lo vota Macron, non può votare. No, roba lì fa campagna attivamente per Fillon, tra l'altro. Però quello che ti volevo dire è che io mi sono andato a vedere i risultati di destra più estrema destra di tutte le elezioni intermedie che si sono svolte durante questi 5 anni di Hollande, e Front National più la destra normale ha raggiunto quasi sempre il 60% e adesso nei sondaggi è al 40%. Dove sono finite queste persone? Cioè, non è che sono scomparse, vuol dire che il paese è molto a destra, l'elettorato di destra esiste, bisogna capire come si comporta, per cui non darei Fillon per morto. Ecco. Ah no, no, nemmeno no, io. No, no, assolutamente. Meno io. Perché questa sottorappresentazione c'è. Cioè, pensa se fosse Fillon Le Pen. Perché è possibile, cioè non possiamo escluderlo minimamente. Io non sono neanche sicuro che la Le Pen vada al secondo turno, pensa un po' che roba, guarda. Esatto, tra l'altro lei nei sondaggi era calata molto, e questo, anche lasciando stare i sondaggi, aveva avuto difficoltà a far campagna nelle ultime 2 settimane. Nel senso che quando nell'ultimo mese c'è stato il ritorno al tempo uguale di parola per tutti, per cui più di un tot in televisione non puoi passare, non solamente tu, ma anche le persone che parlano di te, i giornalisti. Per cui c'è questa cosa stranissima che nei talk show televisivi si parla, a volte si fa una puntata solo sui piccoli candidati che non contano nulla, però bisogna parlarne per forza perché devono avere tempo uguale. Questo fa sì che qualunque cosa lei tirava fuori, ecco, più di un tot in televisione non poteva passare. E quindi questo secondo me l'ha messa in difficoltà, e questo poi è stato registrato dai sondaggi. Dopodiché è sempre stata molto alta nelle elezioni, per cui anche qua è proprio difficile da dire, insomma, è una campagna elettorale molto strana, segnata dall'incertezza. Ma vogliamo parlare un po' di economia, cioè i diversi programmi economici che stanno sul tavolo, posto che probabilmente non sono all'inizio qua oggi il tema fondamentale della scelta del primo turno, però martedì, quando saranno chiare le indicazioni del primo turno, ci dobbiamo aspettare qualcosa sui mercati secondo te? Dipende, se Mélenchon Marine Le Pen, secondo me i mercati impazziscono già da lunedì mattina, insomma, perché sono i due programmi con più spesa pubblica, tra l'altro per spendere dei soldi che tendenzialmente i francesi non hanno. Non hanno, infatti sono... L'Italia insegna. No, ma il programma di Mélenchon è l'utopia, cioè capisci, è una roba... Scusate, ma cosa è successo in Grecia? Cioè, siamo sicuri che Mélenchon... Ecco. Non lo sento più. No, è perché sta col computer, vai sui tasti che disattivano l'audio. Ah, chiedo scusa, ragazzi. No, chiedo, cioè, quello che è successo in Grecia, tutto sommato, non è stato l'apocalisse. Siete proprio sicuri che Mélenchon sia la dannazione? A me non sembra. Cioè, è la sinistra vecchia, ma ci abbiamo preso le misure con i francesi, no? No. Sì, però... No, ragazzi, io penso di no, cioè, scusate un secondo, ci abbiamo preso la misura perché pensi che la Grecia sia agli occhi di tutti delle parti d'Europa, italiani per primi, il tramonto definitivo di proposte come lavoriamo meno, lavorare tutti, secondo me no. Io ti no, ma cioè, la Francia sono quelli che dicono il voto olandese aveva fatto finire i populismi, tu sei convinto? No, assolutamente, ma diciamo che non sono impaurito di una... No, di una, cioè, di un ballottaggio Mélenchon Le Pen non mi impaurisce più di tanto, perché insomma vince Mélenchon alla stragrande, no. E la Francia va a sinistra come ha sempre fatto negli ultimi 100 anni, non mi sembra una cosa drammatica. Invidio queste convinzioni. Ma nemmeno io, cioè no, caro Alberto Oci, io invidio anch'io le sue convinzioni, ma non le condivido. Vabbè, stiamo facendo il processo del sabato, visto che è lunedì, e volevo capire però, invece, facciamo la scena più razionale. Aspetta un secondo, prima di andare a quella più razionale, sentiamo invece l'opinione di Mario anche, sentiamo, sì. Su, se ci fosse un Mélenchon, io e Maselli abbiamo qualche sospetto che i mercati reagirebbero. Calberto, ma no, perché non sopravvalutate, vicinerebbe Mélenchon, ma sì, è come se fosse una specie di bis dei tempi del frontismo, ma anche un bis del Mitterrand che quando vinse aveva il programma del Partito Comunista di Marché. Esatto, bravo. Che pensa invece, che pensa Mario? Ma guarda, certamente se ci fosse uno spareggio Le Pen-Mélenchon, la volatilità di breve termine già a partire da lunedì mattina sui mercati sarebbe fortissima. Però non dimentichiamo una cosa, a giugno ci sono le elezioni legislative in Francia. Esatto. Quindi mi pare che quello sarebbe una sorta di appello o di cassazione che costringerebbe un presidente di frangia, quindi Le Pen o Mélenchon, alla coabitazione. E questo è il primo paracadute della robustezza costituzionale. Però chiunque vinca, cioè, questa è, cioè, si va a coabitazioni comunque. Certamente, perché certamente. Macron un partito lo deve fare, non c'è ancora i candidati nella stragrande maggioranza dei collegi. E l'UMP c'ha guai, immaginare che abbia la maggioranza. Infatti, sotto questo punto di vista, quindi, guarda, si elidono tra loro e vissero tutti felici e contenti al netto di volatilità di breve termine che potrebbe essere molto elevata. Dopodiché, sulla Le Pen, ci sono due grandi discorsi, no? Il discorso securitario e il discorso del nazionalismo economico. Ora, il discorso securitario mostra, diciamo, la sua genericità, perché chiudiamo le frontiere, poi mi spiegherai cosa diavolo c'entrano le frontiere con il fatto che hai gente che ha il passaporto francese. No, questo non ci vuole una laurea in antropologia per capire queste cose. Per quanto riguarda il discorso economico, questo nazionalismo, il protezionismo intelligente, che è questo ossimoro, si scontra col fatto che se i sondaggi sono corretti, la stragrande maggioranza dei francesi pare non avere alcuna intenzione di abbandonare l'euro. Parrebbe. Quindi già questo va in cortocircuito. Per quanto riguarda Mélenchon, mi sembra il trionfo della spesa pubblica onirica. Lui dice che non è comunista, è l'evoluzione della specie. Voglio dire, poi questo signore finisce a rompersi i denti come Tsipras, pur avendo, diciamo, un sistema elettorale, un'impalcatura costituzionale del tutto diversa. Nel frattempo la Francia non ha lo stesso impatto sul PIL e sui mercati della Grecia, quindi certo, io vi inviterei... Ultima cosa, scusami, che volevo dire. In caso di vittoria di Macron, fermo restando che io sono d'accordo con te sulla fragilità del candidato e sulla mancanza di substrato e di seguito, ma chiunque vinca, fosse anche per assurdo o non troppo Fillon e non solo Macron, c'è il problema del nuovo tentativo di convergenza della Francia sulla Germania. Perché se la Francia continua ad annaspare rispetto alla Germania, il progetto europeo continua ad essere minato dalle fondamenta. No, ma questo bisogna vedere. Punto ci salviamo, ma al prossimo no. Chiarimento su tutto, tenete conto che entro fine anno bisogna prendere la decisione su fiscal compact e trattati, tanto per dirne uno. Pausa e torniamo con Francesco Maselli, e si aggiunge anche un secondo ospite. Della belva. Eccoci tornati qua in diretta con il compare dei Conti della Belva. Siamo rimasti in due. No, perché è dovuto uscire perché allora, per un Renato solo, l'altro se n'è andato. Renato, dal tuo punto di vista, non tanto per l'azienda e quello che produce, sport, eccetera, però voglio dire, come cittadino consapevole, sei anche tu dell'idea di Carlo Alberto, ma tutto sommato se fossero le Pemmine ciò, mica tutto sto guaio. Cioè, si rompono la testa, Mélenchon si rompe, l'ha appena finito di dire Mario Seminario, un onirico situazionista post-marxista, pur essendo un cripto-marxista travestito, perché è l'ologramma, per il resto lui c'è sempre la casacca cinese addosso. Mélenchon, io non mi frega da questo punto di vista, lo conosco da anni, però detto questo, tu che pensi invece, Renato? Ma sai, visto dal punto di vista del, chiamiamolo cittadino imprenditore, cittadino industriale, il problema più grosso di queste cose qua è che non c'è nessuno che dice le cose come stanno, cioè che tu vedi un sacco di promesse che non sai già che chi fa il nostro mestiere è abituato, è abituato a gestire le cose coi numeri e quindi a fare le analisi di fattibilità, nel senso che anche a me piacerebbe fare, che ne so, 22 milioni di investimenti, ma non ho i 22 milioni, esatto. Quindi è abituato... Come la spesa di Mélenchon, più o meno. Esatto, quindi è abituato, cioè chi fa il mio mestiere è abituato a dire, allora, quello che è fattibile, credibilmente fattibile, e quello che io vedo nelle elezioni in questo periodo è che ci sono in giro un sacco di promesse, parlo anche per esempio dell'Inghilterra, ci sono in giro un sacco di promesse di cose che sono non fattibili con le risorse che abbiamo in questo momento, sia la Francia sia l'Inghilterra, o che non sono fattibili perché non è così facile, per esempio anche in Inghilterra, riuscire a fare un discorso di hard Brexit, per cui tu arrivi lì e gli dici no, ma noi usciamo, non vi diamo soldi, non facciamo niente, perché non è che credo che l'Unione Europea non si farà proprio no, no, ma prendere a pesci in faccia. Tra l'altro, no? Tieni conto, per esempio, che la chiamata, la novità di questa settimana, no? La chiamata da parte di Theresa May delle elezioni all'8 di giugno serve da una parte per respirare e prendere tempo sui dossier, perché è evidente che siamo impreparatissimi tutti a trattare davvero la congerie di mille argomenti, delle decine e decine di accordi che bisognerà fare per l'uscita britannica, ma dall'altra servono anche per epurare il suo partito, cioè, sì, sì, cioè, certo, sì, sì, questa è, no, la vera, vera ragione, cioè, per cui si fanno, cioè, le elezioni in Gran Bretagna. La verità è che la gente non se ne rende conto, però io ti faccio un, cioè, esempio. Non c'è solo Renzi assetato, no, di sangue nel, certo, suo partito, i leader politici pensano a quello innanzitutto, beh, alla prima guardarsi dai quelli del tuo partito, esatto, beh, e dopo è così. Allora, però torniamo un secondo a Francesco Maselli. E piace molto ai media, questo è secondo me la cosa che spiega molto, ed è anche il voto che nei sondaggi si dichiara con meno difficoltà. Questo secondo me sono due caratteristiche di fondo del fenomeno totalmente nuovo, gli altri sono pezzi esplosi di un universo politico o evoluzione di una parabola del fronte nazionale, ma il caso Macron è questa cosa qui, è una specie di figlio di minori difficoltà nell'identificare a voce alta una via d'uscita dalla fine della Quinta Repubblica, ma alla fine l'impressione, tu sei andato sempre sui comizi, cioè, l'ultima manifestazione sembrava, quel palazzetto sembrava gremitissimo come non si vede alle manifestazioni del fronte nazionale, quanto fidarsi di questo? Quanto fidarsi di questo? È difficile da dire quanto fidarsi. Tra l'altro lui non è un grandissimo oratore. No, direi di no. Si vede, cioè, anche un po' noioso. Ecco. Proprio pessimo, se posso dire. No, giudizio, no, tecnico di uno che calca i palcoscenici. Cioè, avrebbe, no, avuto bisogno di un corso, caso. Io non so come. Vabbè, comunque. Sì, è vero, dopo un po' ti annoia, perché poi sui social sono molto bravi, perché mettono delle piccole parti dei discorsi dove effettivamente magari va bene, ma vedersene uno intero, sentirlo è mortale, cioè un palazzetto così sprecato per uno che parla in quel modo è una roba mortale, cioè secondo me la metà della gente va a casa delusa, però questa è la mia impressione. In realtà questo non si sa, perché comunque moltissime persone che ci sono tipo dei fan, come se stessero andando ad ascoltare un concerto. Più il clima che si respira che quello che dice lui. Il problema di Macron, però, non si vince così, posso dirti, questi sono, sì, i classici, io, fenomeni che ai vecchi come me fanno venire il sospetto, perché poi si afflosciano nel voto, però magari, però sai, il fatto è che il sistema politico, come abbiamo detto più volte, è saltato. Se Fillon non riesce a recuperare e non riesce a convincere gli elettori che hanno sempre votato a destra a votarlo anche a questo giro, chiaramente ci va Macron al secondo turno. Questo mi sembra chiaro, per cui lui potrebbe approfittare di questa situazione di grandissima incertezza dove effettivamente ha colmato un vuoto che aspettava solamente che qualcuno lo colmasse, evidentemente. Sbaglio se dico che il candidato tedesco più favorito è Macron? Quello che sì, i tedeschi, no, vedono, non con sbagli, maggior... Non sbagli, no, non è così, cioè, perché Fillon mica tanto, mica tanto. Beh, loro si sono, in Germania hanno preso malissimo questa storia degli scandali. La stampa tedesca l'ha attaccato più volte, tra l'altro non capisco nemmeno come, siccome non è tedesco, quindi non è che devono votarlo loro, però l'hanno attaccato moltissimo e la Merkel l'ha subito mollato. E dopo tipo due settimane che era scoppiato lo scandalo ha incontrato Macron. Quindi ha evidentemente scelto il suo cavallo. Ma insomma, io per Don Bici tedeschi mi hanno dato, anch'io ho chiesto come mai, no? La risposta è, guarda, che Merkel, ma anche l'SPD tutto sommato, non vuole un Fiona dell'Iseo, sarebbe un filo putiniano molto forte come interlocutore, sì, nuovo di Putin in Europa. I tedeschi questa roba non la vorrebbero, per, no, motivi che capisco, ecco. Si spiega anche così la telefonata di Obama a Emmanuel Macron. Esattamente. Dell'altro giorno, due giorni fa, a Obama. Cioè, Fillon, questo a chi ci ascolta in Italia non è chiaro. Fillon è direi il più filo putinista di tutti i candidati. Adesso, no, quella è Marine Le Pen. Marine però... Le Pen va bene, però voglio dire, quello che non è noto ai nostri ascoltatori è che Fillon è molto sostenitore di Putin, cioè è l'idea del vecchio gollismo dall'Atlantico agli Urali, e il fatto che c'è una missione della Francia più verso Mosca e San Pietroburgo che dall'altra parte dell'Atlantico e così via. Cioè, esattamente così. È un mix di vecchio e nuovo, però molto, molto, molto orientato verso quel genere di vecchia cose. Vecchia Europa. Beh, ma sai, è anche ciò di cui Putin parla incessantemente. Putin offre ai governi europei, finanzia e sostiene i partiti che dichiarano di essere filoputinisti, come la Lega in Italia, eccetera, nel nome di questa piattaforma europea che è alternativa a quella della NATO, a quella eccetera, eccetera. Ma dal punto certo di vista russo si tiene tutto. Si sono ridotti male dal finanziare Togliatti e finanziare Salvini. Ma no, ma dai, non è vero. Ma la storia cambia, non è questo giudizio. Non è così, sembra ironico e sardonico, lo so che non vuoi essere ironico. La storia cambia, ragazzi. Putin è uno che, da questo punto di vista, tu dovresti costare un ferro vecchio. Non è affatto un ferro vecchio. No. Putin è uno che utilizza mai al meglio. Pensato sia un ferro, ecco, gli piacerebbe a Putin, anzi, il discorso di Carlo Alberto della tecnologia. E che io diffido, no, quando stanno, è lo Stato a farlo. Sono i più bravi al mondo. Sono i più bravi al mondo. Allora, Francesco, tu naturalmente non farai mancare a tutti i tuoi fan, ascoltatori e lettori italiani. Farai le lunghe dirette a ogni turno elettorale notturno, mi pare di capire, Francesco. Ci contiamo. Da quello che ho capito, la famosa maratona Maselli, esatto, la maratona Maselli. Però io dico grazie e posso dirti bravo, perché hai usato al meglio questa occasione, hai soddisfatto noi tutti, tanta gente. E io mi auguro che qualcuno, voglio dire, qualche grande gruppo editoriale si gratti la testa e dice: ma guarda quanto è bravo questo, e di questi tempi ce n'è proprio bisogno. Perdona questo aspetto personale, forse non ti aspettavi, non ti volevo mettere in difficoltà, ma è la mia maniera per dirti grazie e quindi di approfittare anche in futuro per leggere che come votano i francesi d'ora in poi. Basta chiacchiere, si va alle urne. Grazie Francesco, noi torniamo tra poco. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ragazzi, che puntata! Ho scoperto che Carlo Alberto è tifa per lo Stato nelle ferrovie. Sinistra ferroviaria delle belve. Dice che Mélenchon, tutto sommato, non è poi così male. Allora vi leggo. Siccome il suo Bruno Leoni ristampa anche libri, abbiamo stampato uno bellissimo che ieri sera mi ha entusiasmato a rileggere, del mio concittadino torinese scomparso purtroppo nel 2016, Sergio Ricossa, uno dei pochi veri economisti in cattedra liberali che l'Italia abbia avuto nel secondo dopoguerra, che si intitola I fuochisti della vaporiera. Infatti gli abbiamo regalato a Mazzoncini, perché c'è una copertina con un treno con la stella rossa sovietica sopra. Un altro libro che abbiamo appena editato è Potere e mercato di Murray Rothbard. Farebbe bene conoscerlo qualcuno molto in Italia, perché stiamo parlando di una critica ancor più liberista a Mises, Hayek, eccetera eccetera. Stiamo parlando di una critica ancora più estrema di quella di Nozick all'idea di Stato, certo. Murray Rothbard, ma bella anima anarchica quella di Rothbard. No, però un rigoroso insomma, ed è un libro, Potere e mercato, da leggere. Allora, vi leggo questo perché è un po' la sintesi di molte cose che penso che mi spingono poi a combattere e a perdere. Oggi ho perso 3 contro 1 qua su Ferrovie dello Stato, però almeno ci proviamo ad animare il confronto. Allora, nel libero mercato, scrive Mario Rod, la pagina 250 di Potere e Mercato, nel libero mercato la ricchezza è una risultante soltanto delle scelte volontarie di tutti gli individui e della misura nel quale gli uomini si servono l'uno dell'altro. Naturalmente, se il libero mercato è in grado ed è messo in condizione di funzionare. Ma la possibilità di sovvenzione da parte del governo consente un cambiamento radicale. Apre la strada a un'allocazione della ricchezza, delle risorse, delle opportunità, basata sulla capacità di un singolo o di un gruppo di ottenere il controllo dell'apparato che decide l'allocazione delle risorse. È questa la differenza radicale che non può non essere vista. La lotta organizzata per il controllo dei singoli e dei gruppi di potere diventa il meccanismo che sostituisce quello della libera cooperazione tra individui. Avete capito perché io sono resto diffidente dalle soluzioni di Stato. Mélenchon non mi piace, e Mazzucchini sono il primo che dice, per fortuna, uno che accetta venire qua a rispondere. Però insomma si poteva fare diversamente. Renato, sembra che ti sei collegato a quello che stavo giusto pensando. Sai che io vengo qua una volta, adesso c'è un po' più di mestiere anche radiofonico, vengo più qua più tranquillo, una volta mi preparavo molto di più. Ma adesso no. Invece leggo i giornali la mattina, esatto, e poi mi faccio ispirare tanto dalle cose. Non mancano. No, direi di no. E allora stamattina leggevo i giornali e leggevo di questa cosa, di questo referendum che mi era sfuggito, della regione Lombardia, dove noi andremo a votare se noi vogliamo una regione più forte, più autonomia e più queste cose qua. Il 116 della Costituzione lo consente, bisogna vedere su alcune materie. Io sono anche favorevole. Voteranno sì Sala a Milano, Gori, il sindaco di Bergamo. Io voto sì. Anch'io, io sono sì, anzi, vabbè, voglio sì. Milano città-stato, cosa te pensa un po' che roba. Ci ho fatto un programma tecnologico su questo. Però sentiamo. Scopriremo che del KGB. Sì, no, ma lui, vabbè, sai, lui fa il consulente. Quindi. Il... No, però leggendo un altro giornale invece, e non c'è su tutti gli altri giornali, questo già la dice lunga, leggevo invece del discorso dell'antidumping che sta portando avanti la Comunità Europea, quindi le nuove norme antidumping nei confronti della Cina. E questo si ricollega bene a quello che anche tu poco fa dicevi, perché il problema della Cina, secondo gli italiani che per fortuna hanno fermato le nuove norme antidumping, qual è? È che se noi applichiamo le norme antidumping classiche ai cinesi, ci perdiamo il fatto che i cinesi sono per la maggior parte aziende che hanno in un modo o nell'altro un sussidio statale. Quindi noi in Cina abbiamo una specie di FS precedenti che sono molto diffuse, nel senso che la maggior parte delle aziende cinesi lavorano in dumping per il semplice motivo che hanno i soldi gratis, perché hanno i soldi gratis dalle banche pubbliche, le banche sono tutte pubbliche, hanno gli i prezzi NPL degli là input non decisi hanno... non dal mercato ma da fornitori pubblici, e quindi gli NPL là non sanno neanche cosa esiste il giorno in cui cosa siano, il giorno in cui dovranno farci i conti, ho la vaga impressione che avranno un brutto momento. Ecco, no, speriamo di non essere presenti quel giorno, perché se ci fosse un'esplosione dello shadow banking cinese, Lehman Brothers rischia di essere una sciocchezza vera. E allora il mio pensiero di oggi era questo. Allora, noi vediamo continuamente in televisione, sui giornali, eccetera, eccetera, un sacco di politici italiani che sono quelli che si occupano della bassa macelleria a Roma, del Parlamento, delle lotte interne nel PD, delle lotte interne fra i grillini, eccetera, eccetera. E non vediamo mai, invece, e non sappiamo neanche chi sono le persone in Parlamento europeo o nelle commissioni tecniche che stanno decidendo il nostro futuro industriale, perché queste cose qua sono quelle che colpiranno i nostri figli come futuro industriale, perché su quella che saranno le decisioni dell'Europa a livello di regolazioni, norme per gli Stati Uniti, quindi i famosi trattati, eccetera, eccetera, sono quelle che decideranno il nostro futuro. Cioè il nostro futuro, detto proprio fuori dai denti, non lo decide Fico, che è il presidente della commissione di vigilanza RAI, che io vedo tutti i giorni in televisione. Già, perché la televisione tende a sovrarrappresentare i problemi della RAI. Il nostro futuro lo decide chi è a Bruxelles, a decidere sui trattati internazionali. Un tempo, Renato, faccio una cosa che non dovrei fare. Ti avrei detto quando ero più giovane, ma Confindustria queste cose le può cambiare. Poi mi sono disilluso anche di quello, purtroppo, perché questo lo dice lungo sui problemi della rappresentanza. Sapete com'è, cari azionisti industriali, noi abbiamo visto come azionisti in questo gruppo non siamo più molto... Cioè non ci potete credere di magnificare le vostre doti, ecco. Cioè lo dovete capire che è così. Poi dopodiché potete anche scegliere che chi lo dice al microfono non va più bene, ma io penso che lo dobbiamo ai nostri ascoltatori, perché i nostri ascoltatori continuano a bersagliarci di lettere. Non è che passano i mesi, cari imprenditori di Confindustria, in ascolto e si dimenticano del fatto che state assistendo mese dopo mese al decadere ulteriore del valore di questa impresa di comunicazione. I nostri ascoltatori se lo ricordano e chiedono a noi ragione del tempo che passa. Quindi dovete capire che poi uno... Però io un tempo avrei detto, Renato, beh, per esempio questa è la classica cosa in cui associazioni di impresa lungimiranti possono battersi molto per cambiare il numero, la qualità, il percorso, il profilo di formazione di quei rappresentanti dell'Italia nelle commissioni tecniche della commissione che stabiliscono esattamente queste robe qui, gli standard tecnici. Tutti si lamentano, sono più a vantaggio dei tedeschi che degli italiani. Quelli sono presenti. Siamo assenti, Oscar. Parlando di Confindustria, l'altro giorno era una riunione di una delle associazioni. Io c'ho anche un po' di poltroni in Confindustria, quindi sai che. Vabbè, comunque, detto questo. E si parlava appunto di queste cose qua, delle regolazioni tecniche, e ci hanno detto che chi va per i tedeschi come rappresentante dell'industria è la stessa persona che poi è rappresentante all'interno del governo e della commissione governativa per il governo tedesco. Persone identificate con un livello anche di autorevolezza, mentre in Italia si muovono, qualche funzionario slegato da tutto. Loro si muovono come un sol uomo, come sempre accade, quindi arrivano forti, hanno delle aziende grandi e quindi già sono più forti per i fatti loro. Noi arriviamo tipo armata Brancaleone e finisce come finisce. E poi cominciamo a litigare tra di noi prima di litigare coi tedeschi. E poi dicono che è un complotto, esattamente. Eccolo qua, Mario. Ha ragione lui. Il problema è che io prenderei Mario. Ecco, io prenderei la serietà di Mario, è una persona rigorosa e polemica su base a fatti e numeri, nel senso che non si sente dire un giudizio di Mario se non su fatti e numeri. È un metodo di lavoro questo, capite? Vale se uno fa il portfolio manager, se analizza i mercati, se va nelle commissioni tecniche, fatti e numeri. Spietati però, coerenti, ecco, per quello Mario Seminario secondo me è lo spirito di questa trasmissione ed è migliore molto rispetto a me. Caro Alberto, è un'altra cosa, tu sei un imprenditore, ma il metodo Seminario, questa è la mia scelta della vita. Non te l'aspettavi sta chiusura così, Mario, di la verità. Infatti adesso vado in bagno a piangere, grazie. Dai, pianta, continuate su Radio 24, buon fine settimana.